va la nostra solidarietà, insomma, a tutta la famiglia, appunto, di questa giovane ragazzina, insomma, che purtroppo non ce l'ha fatta, insieme ad altri che stanno in ospedale e che sono feriti gravemente, insomma, per cui questa è un'area, insomma, bruttina dal punto di vista un po' della, se volevano mettere terrore ci sono riusciti, insomma, in realtà, no? Però bisogna alzare sempre, come dire, gli occhi al cielo per dire non bisogna avere paura, bisogna andare avanti, perché comunque anche se gli inquirenti non hanno dato una posizione univoca alla questione, possiamo tracciare, insomma, che il nostro territorio è pienamente coinvolto in questa situazione che diciamo di emergenza, che va al di là, insomma, di tutte le ipotesi che vogliamo fare. Il mio aspetto sociale, sociologico della questione è che non bisognava per niente, insomma, lasciare tutto al caso, ma da quando c'è stata, insomma, una forte opposizione, una resistenza, diciamo, tra mafiosa e non mafiosa, diciamo, no? di questo nostro territorio, bisognava investire moltissimo educativamente alla questione di, no, non dico della legalità, ma perlomeno di condurre nei nostri giovani, insomma, nei giovani del nostro territorio, una volontà di non cedere assolutamente a un terrore del genere. Per cui anche fare memoria storica, cosa che in realtà non c'è mai stata. Memoria storica vuol dire non solo delle nostre situazioni, diciamo, di carattere mafioso, ma di memoria storica anche precedentemente a tante altre stragi che sono avvenute, no? Per cui quando dicono che la mafia non ha assolutamente fatto, è la prima volta che induce una situazione del genere, e mi viene da ridere, perché in realtà in tantissimi altri anni, insomma, c'è stata una convivenza, no, tra mafia e politica, che hanno fatto saltare giovani e famiglie intere, insomma, per cui non è proprio un obiettivo, no, perché è la prima volta. La scuola dà la stabilità della socialità e della libertà, quindi bisogna indurre, insomma, a continuare a essere luogo di libertà e luogo di espressione, insomma, intellettuale e di crescita soprattutto. Per cui rispetto alla propria, diciamo, dinamicità, insomma, dinamica della questione, io se quello che le ultime notizie danno è perché, insomma, qualcuno ha dato attraverso un telecomando mentre stava arrivando un pullman da Mesagne, perché effettivamente è le giovani vite, insomma, che una che è morta e gli altri che sono feriti sono la maggior parte di Mesagne, per cui non dico che c'è un obiettivo, però in realtà se stavano aspettando che arrivasse questo pullman, non dico che c'è un collegamento, però non bisogna tralasciare questa situazione che secondo me è molto importante, ecco. Ecco, ma insomma, quello che sono le vostre considerazioni, diciamo, su chi e per quale motivo avrebbe potuto fare una cosa del genere, quali sono, nel senso, ovviamente a botta calda. Io per quanto riguarda di essere un gesto isolato di qualche folle, io personalmente lo escluderei dal punto di vista proprio della dinamicità della questione, cioè nel senso che non è una questione che uno fa saltare da solo una situazione, cioè è conducibile tutta una situazione sociale di territorio che non si sposta dal territorio in realtà. Ecco, questa è un po' la mia valutazione, ecco. Ecco, ci racconti un po' il territorio, che tipo di territorio è? Ecco, guarda, perché noi abbiamo poche informazioni in generale, poi succedono queste cose, arrivano i giornali e dicono: ah, quello è il regno della mafia da sempre. Guarda, insomma, ecco, ottimo Marco, perché è proprio questa la questione. Hai centrato, diciamo, la domanda è precisa, perché bisogna assolutamente avere memoria storica, bisogna ricostruire, non bisogna mai abbandonare da dove parte il filo conduttore, cioè nel senso. I nostri territori sono stati abbandonati, assolutamente abbandonati, e non è mai ripresi come una condizione, diciamo, di sviluppo non necessario per estirpare completamente questa anomalia, insomma, che è nel nostro territorio. Il nostro territorio è abbandonato, se vuoi, anche a se stesso, dal punto di vista economico, di precariato e di tutto quello che c'è intorno. Basta pensare che il nostro territorio e i nostri padri che hanno lasciato le terre ai loro figli e poi dismessi perché non riescono più a portarle avanti, quindi c'è una improduttività, diciamo, del nostro territorio, se non quella, diciamo, di fare dei campi lunghissimi di fotovoltaico e investire in questa maniera senza dare una produttività, insomma, alla nostra terra. Questo è uno degli, diciamo, degli elementi di carattere economico e sociale. Però ripeto, bisogna assolutamente non tralasciare quelli che sono quei ragazzi che effettivamente non hanno nemmeno la capacità di dire che memoria c'è in Italia, che memoria c'è nel nostro territorio. Per cui magari, sai, anche atti dimostrativi del genere possono pensare che siano di quelli che assolutamente possono immaginare che possono fare dei danni immensi, insomma, alla coscienza umana, ecco. Senti, a proposito di questi temi, nel Brindisino, a Mesagna, insomma, in generale, la relazione fra criminalità, insomma, grande, media, piccola, questo non stanno a dirlo, la politica e, diciamo, i gruppi di pressione economici esiste, come succede magari in altre parti del Mezzogiorno più conosciute, oppure si tratta di relazioni, come dire, più blande rispetto ad altre regioni? Guarda, se dobbiamo essere rispetto ad altre regioni, come che tu ben riferisci, sono un po' più blande, non organizzate in maniera strutturalmente e storicamente come altre, no? Altre regioni. Quindi si poteva benissimo, però quando in realtà si sentono in difficoltà alcune situazioni del genere, tutti ci insegnano che alzano il tiro, insomma, rispetto a far preoccupare il territorio, e chiaramente non penso che si possano fare isolandosi totalmente da certi apparati, insomma, ecco. Senti Gino, l'ultima cosa ti volevamo chiedere, che cosa succederà adesso a Mesagne? Sono i funerali, ma poi, insomma, per le prossime settimane, i prossimi giorni sono previste mobilitazioni, momenti di comunità, insomma, qual è la risposta che sì, la comunità è sicuramente scossa. Per cui si sta mettendo in atto delle mobilizzazioni, diciamo, di carattere anche diciamo comunitaria, perché effettivamente c'è bisogno di essere uniti in tutti i sensi rispetto a questa strategia, no? Diciamo così. Però voglio ricordare anche che anche in passato piccoli momenti di terrore ci sono stati nella nostra cittadina. Purtroppo bisognava prendere la situazione in mano subito per dare una risposta, no? A scendere in piazza, a solidarizzare concretamente a viso, insomma, con tutta la comunità. Io devo ricordare che questo purtroppo non è stato fatto, insomma, nel nostro territorio, per cui anche piccoli episodi, che poi non sono piccoli episodi, potevano anche scatenare un altro tipo di piccoli stragi, cioè voglio dire, non solo la macchina incendiata, insomma, al presidente dell'Antiracket a Mesagna, no? Quindi bisogna dare, secondo me, una risposta immediata il giorno successivo, cosa che non è stata fatta. Ma non ci dimentichiamo che anche altre situazioni isolate, tipo che facendo saltare un imprenditore nel pomeriggio di un assolato, insomma, luglio dell'anno scorso, un portone dove comunque potevano passare benissimo in bicicletta o a piedi delle persone, per cui ci poteva anche cascare qualche altra situazione negativa come questa. Anche lì, insomma, no? Non c'è stata una risposta. Voglio dire, non si elimina col silenzio, cioè rompere il silenzio significa rompere comunque anche una piccola dimostrazione di questi qua. Bisognava comunque reagire in modo come sappiamo fare noi, insomma, in realtà, no? Cioè, no? Certo. Noi compagni, noi tutti, insomma, abbiamo vissuto, insomma, anni precedenti, insomma, quindi mobilitarsi subito. Questa volontà adesso della scuola, questa nuova cosa, è sembrato quasi che fosse una cosa che non poteva mai succedere, e purtroppo è successo. Sì, ci troviamo a parlarne, infatti, quindi ai noi. Ma anche Gino, anche voi come compagne, compagni sindacalisti avete avuto insomma problemi nel corso della vostra attività, mesagne, disordini? Io se dovrei raccontare che comunque tanti anni fa, io sono un po' nel movimento da tantissimi anni, noi avevamo un centro sociale proprio nel centro storico di Mesagne, negli anni proprio di piombo della Sacra Corona Unita, insomma, no? Per cui anche lì abbiamo scolarizzato, dal punto di vista, tolto dalla strada alcuni ragazzi, anche dimostrato in ogni caso di saper fare movimento e cultura e tante altre cose, poi anche il periodo della guerra del Golfo, insomma, portare la gente insomma ad avere un'altra capacità, diciamo, di coscienza, e dando fastidio al più e al meno, però c'eravamo, ci siamo, insomma, come siamo stati nel 91, ci siamo dopo il 91 anche adesso, insomma, nel 2012, ecco, mai perdere, insomma, no? Riuscire a trovare le condizioni di unica voce, ribellarsi soprattutto a un sistema di cose che va dalla convivenza più estrema alla piccola, diciamo, criminalità, che poi non è nemmeno organizzata, ma sono diciamo escrementi da una parte e dall'altra, insomma, ecco.